Radio El Empalme Otoñal Rock. She doesn't give you time for questions as she locks up your arms and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. De Cat, Earl Stewart, 1977. One morning comes and you're still with her. On the bus, I'm lo recuerdo perfectamente, aunque no recuerdo el horario. El horario era de 17 a 18:30, no sé. Manfred Mann, Blake the Young. Madman drums, bombers, Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with a mob, says the Manfred Man, Earth Man, blinded by the light. Wrapped up like a douche, another runner in the night. My mind drove. Fred Mann, tremenda banda, la escuchamos muchas veces, álbumes enteros aquí en el Empalme. 1977, Blinded by the Light. Está escuchando el maestro DJ, el gurú. Así que estamos repasando canciones de su época. Recuerdo claramente ver llegar en los bajíos de la Liga del Trabajo de Guichón para una matiné bailable a... Periquín. De la década de los 70 ya se gestaba la onda disco, che, bambino. Vos no te acordás, pero yo sí. Era de 17 a 18 y 30, más o menos. Gente muy joven escuchando el Empalme Radio Rock esta noche, y presta atención a la parte, a la sección que dice me acuerdo de o me acuerdo que. Vamos a poner este tema para el Nobel oyente, admirador de Queen, y luego le contamos la anécdota. She says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't decline. Caviar, cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge your mind. Then again, incidentally, you that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, killer queen, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen, Queen. ¿Cómo estamos, Jorge? Buen día. Che, acá andamos laburando. Mirá, ahora llego y me tengo que ir a arbitrar el corte, loco. Si no, le echamos una tanteada, ¿eh? Una pesca. Recuerdo que se usaban mucho las canciones multi, arti, orto, instrumentalizadas, orquestadas, como estas. Me siguen gustando. Blood Unlimited. Satin Soul. Y no es un refrito. En 1975, Hits Archive. love them. Love Unlimited Orchestra. Si tenés mayor, si eres mayor de 70, seguro lo recuerdas. Clásicos del Empalme Radio Rock. Estamos en el año apenas 1975. Recordando grandes canciones que no estén muy quemadas, dijo Harris. Mira, Harris, un colega tuyo, Al Martino, instrumentalizó, interpretó esta canción de Gilione Cinquetti. I look in the mirror, but I look a stranger. Can this be the sensible me? Said he wouldn't fall in love. El tipo era de ahí, I suddenly saw you. De la isla esa. I knew there was danger. Why run away when I love you and want you forever? No, I'm a dreamer. Si das una vuelta por el barrio y preguntas por él, seguro se acuerda. I can fly to the sky. De dime dónde voy. Chanson egocentric, South Santa song. Chanson egocentric, South Santa song. Buena selección. Vengo de la isla de Sicilia, que no está lejos de la África. Tierra extranjera. Y canto para la EMI, y canto para la EMI. Saben que nos gusta mucho Franco Battiato. Querido Franco, chanson egocentric. Central Park, mi vida oscuras. Ich bin klein. El pueblo cantaba alrededor del fuego en el campo. Yo recuerdo un sonido prehistórico. Era en el tiempo de los dinosaurios. Oh, nine. Chanson egocentric, self-centered song. Chanson egocentric, self-centered song. Soy yo, ¿dónde estoy? Cuando estoy fuera de mí. ¿De dónde vengo? Dime dónde voy. Chanson egocentric, self-centered song. Es impresionante. Chanson egocentric, self-centered song. Me dice, estoy tan solo. Y ella tan lejos, cuando la veas, dile que la quiero. Impresionante, Impalmi FM. ¿Qué lo parió? Impresionante, ¿eh? Si esta radio no se llamara El Empalme, se iba a llamar Radio Tirana. Como los cinderos del desierto, con candelabros encima. Con música balcánica. O como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Y Radio Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de siete octavas. Battiato. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Yo quiero verte bailar. Agregá Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. De ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la Baja Padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila, viejos valses vieneses. ¡Qué lo parió! Impresionante, ¿eh? La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas. No las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores volverá, con el temor y las apuestas, y esta vez, ¿cuánto durará? Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. ¡Qué lo valió! Impresionante, ¿eh? Impresionante. Tantas ocasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. 23, 22, 29 de mayo de 2024. Y los deseos no envejecen a pesar. Esta emisión del Empalme de Radio Rock no vuelve más. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá. Aventura senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Questi anni non li avrai, se non li perderai. Tradiscono i decenni, vedrai che ti vedrai nel taglio dei capelli. Ai quanti ne tagliai, nel mare ti vedrai. Nel mentre la canzone, il ballo di fili, l'estate bella assai. Nel mentre la canzone, e tu scontenta stai, prestata agli anni tuoi, poi dopo penserai, quel certo sole dove mai. Negli anni, gli anni tuoi, che vivi dopo in penombra sfogliando foto, riguardando un film. Questi anni ormai finiti,

si annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu. Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero. S'ubriaca di stelle, il mattino è leggero. Es una bella canzone, il cielo d'Irlanda, Fiorella Mannoia. L'Irlanda è un enorme cappello di pioggia, il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia. Il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sul bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero, ma dopo un momento li fa brillare. Il cielo d'Irlanda, bambino. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Il cielo d'Irlanda è una donna che cambia spesso d'umore. Il cielo d'Irlanda è una gonna che... Acá les mando saludo con mucho frío, pero cálido saludo desde la ruta 12 de las sierras de Maldonado. Stiamo già dimenticando la realtà, non amiamoci così del tutto. Gli occhi chiusi con enorme serietà, quel silenzio compiaciuto e denso che non si sa, non si sa. Non amiamoci così, sarà infinito però non si sa. Stiamo già dimenticando la realtà e l'amore non è uguale a niente, e distrugge dove passa e dove va, ed è grande solo indifferente. Non lo sa, non lo sa, non amiamoci così, così del tutto, perché poi ci deluderà. Muore l'amore adesso, quando è grande, quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa di noi la grande fragilità. Sarà. Nel cuore qualche città, una dolce vanità, un bel ricordo, una mia delicata allegria. Stiamo già dimenticando la realtà, penso come abbiamo perso il sonno. Io ritorno piano piano mesi fa, che in un attimo faceva giorno. Ora l'alba è per noi una lenta cortesia, che ci fa il cielo col suo bel celeste indulgente. Muore l'amore adesso, quando è grande, quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa di noi la grande fragilità. Ci sarà. È Es una muy buena selección. Quedan 15 minutos de emisión. La última con este Windows 10. Es la última, Bambino. Es una muy buena selección de la Bella Italia. Mientras l'amore. Es una muy buena selección, estamos conscientes. Recuerdo que en 2008-2009 llegaron dos tanos y le preguntamos, ¿qué tenemos que escuchar de la Bella Italia además de Premiata, Forneria, Marconi y Domenico Modugno? No, Domenico era de Francia, bueno, no, era de Italia. Y me dice, ¿y vos qué escuchás ahora? Y yo escucho a Zucchero, dice, es medio comercialoide, pero no es malo. Empalme FM. Ho camminato per le strade col sole dei tuoi occhi. Ci vuole un attimo per dirsi addio. Il volo spara, che bella quiete sulle ciglia. Mi freddi il cuore e l'anima. Ci vuole un attimo per dirsi addio. Questo troppo amore per noi, questo bel dolore, ti prego lo sai, sogno qualcosa di buono e mi illumini il mondo, un buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero. Cielo proprio come te, yeah. Ho visto il sole nei tuoi occhi calare nella sera. Ci vuole un attimo per dirsi addio. Spara, che bella quiete sulle rive. Mi freddi il cuore e l'anima. Ci vuole un attimo per dirsi addio. Dove andranno i giorni e noi, le fughe poi ritorni. Ti prego lo sai, sogno qualcosa di buono e mi illumini il mondo, un buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero. Illumini il cielo proprio come te, yeah. Prestaron atención que canta parecido al locutor de la radio Le Palme. Y a Joe Cocker. Impresionante el Empalme FM junto a Limay. Desde Piñera. Sole, siamo caduti in volo. Siamo caduti in volo. Mio cielo. Siamo caduti in volo. Baby don't cry, baby don't cry, baby don't cry, baby don't cry. Finales de emisión del Windows 10 de El Empalme Radio Roque. Vamos a finalizar con Zucchero seguramente. Il voló. Y aquí llega, mira vos, Conchi, Conchi Celeste. Empalme FM. Thank you. selección de Le Palme Radio Rock en esta segunda parte. ¿Qué les ha parecido? Lo parió. Impresionante, ¿eh? Impresionante. FM.